Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Le mie urla si facevano sempre più aggressive, finché un giorno, al termine della gara, l'allenatore mi si avvicina e mi dice: senti, invece che insultare l'arbitro, perché non fai il corso per diventarlo? Sono Claudio Boato, vivo a Padova, ho 53 anni e sono sposato e lavoro in banca. E come hobby, ovviamente, faccio l'arbitro di pallavolo. Lascia che il vecchio Silver ti dia un buon consiglio. Impara a raccontare storie. Impara a inventire, a inventare e a mentire. Te la caverai sempre. Restar muto e non avere risposte è la peggiore cosa che possa capitare a un uomo. Sempre che tu voglia diventare un uomo, si capisce. Queste tre righe che vi ho letto sbagliando, tra l'altro, perché ho invertito inventare e mentire. Impara a inventare e a mentire, te la caverai sempre. Queste tre righe sono tratte da un libro di un autore nordico, di un autore svedese, che non è di quelli che va per la maggiore per i gialli. Si chiama Bjorn Larsson ed è il titolo del libro è La vera storia del pirata Long John Silver. Long John Silver ve lo ricorderete perché è una figura che già appare nella letteratura mondiale grazie all'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, ed è una figura fantastica perché non è semplicemente il cattivo, non è quello che boom viene bollato come uno brutto, cattivo, che ogni cosa che fa è orribile e merita pietà. No, è un personaggio molto più intrigante, un cuoco che si imbarca sulla nave e che a un certo punto fa questa roba qua, cioè ribalta tutta la ciurma contro il capitano e contro anche il ragazzino che è il protagonista e che racconta la storia. Una delle scene più belle dell'Isola del Tesoro è proprio quando il ragazzino narratore si infila di notte, semplicemente perché ha un po' fame, in una cassa che contiene delle mele, che è sul ponte e quindi è lì a disposizione di tutti. Sono in navigazione già da un po' di giorni, la terra si sta avvicinando, lui si infila in questa cassa e a un certo punto sente un colpo e sente delle voci parlare tra di loro e riconosce la voce di lui, di Long John Silver, che non è un pirata, è semplicemente il cuoco di bordo ancora, e dice una frase tipo: volevo uscire per farmi riconoscere, ma quando sentì le prime parole del discorso di Long John Silver non sarei uscito per tutto l'oro del mondo, perché quello che avevo sentito valeva la vita mia e di tutto l'equipaggio. Questo vuol dire che leggetevi quel libro se non l'avete mai letto, ma immagino l'abbiate fatto a scuola, L'Isola del Tesoro. Questa sorta di spin-off di Larsson racconta questo personaggio interessantissimo che fa, come avete sentito da queste poche righe, del raccontare storie, una ragione di vita, anche se quello è un pirata ed è un po' una storia diversa dalla nostra, che invece ogni giorno raccontiamo una storia che ci raccontate voi. Buongiorno a tutti, questa è sempre Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma è Voi siete qui. Voi siete qui è la scritta che si trova di solito sulle mappe, sui luoghi, sulle mappe di luoghi complicati. Quando siete in una stanza d'albergo, chiudete la porta e lì dietro c'è una planimetria del piano in cui vi trovate e il pallino rosso è scritto Voi siete qui in caso di emergenza per fuggire, ma anche in un museo dovete capire dove andare per vedere i mostri marini invece che i quadri, voi siete qui. Ecco, noi cerchiamo di creare una sorta di mappa tutti i giorni, lo facciamo da 3 anni, questa è la terza edizione di programma, e con quelle storie che ci mandate noi facciamo proprio una mappa che tra l'altro trovate sul nostro sito, una mappa vera e propria attraverso poi l'Italia rappresentata da Google Map, tante piccole palline che ci indicano dove siamo, dove siete voi e dove siamo grazie alle vostre storie. Ogni giorno ne raccontiamo una diversa e oggi raccontiamo una storia che è piuttosto, direi, poco comune, perché chi la racconta, cioè Claudio, si fa carico di raccontare la vita di una figura che non è abitualmente molto simpatica. Devo dire, quasi si avvicina a quella del vigile urbano. Con tutto il rispetto, non sto dicendo che i vigili urbani non siano antipatici, però fanno un lavoro, poveri, che ogni tanto è antipatico, no? Cioè, obbligarti a pagare delle multe solo perché chiaramente noi facciamo degli errori e mettiamo la macchina dove non va messa. L'arbitro è un po' la stessa cosa, cioè ti indica dicendo hai fatto male, è un errore, devi fermarti e bisogna ripartire. Lui fa l'arbitro di pallavolo, ma se c'è all'ascolto un arbitro di qualsiasi disciplina sportiva che voglia di raccontarci tramite un sms al 349-238-6666 o su Facebook se ha un computer davanti, Voi siete qui Radio 24, o su Twitter Voi siete qui R24, dicevo, un arbitro che voglia di raccontarci la sua esperienza peggiore, l'esperienza più assurda di arbitraggio di una partita, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Vorrei parlare, ma ne parlo più tardi con Claudio, perché ho scoperto solo da poco che c'è una disciplina sportiva che non ha l'arbitro, ed è il frisbee. il frisbee, che è, non c'è da ridere tizio, c'è un campionato, è una roba seria il frisbee, si chiama, anzi aspetta, non si chiama neanche frisbee, ha un nome vero, Ultimate Sport, l'ultimo sport si chiama, è uno sport di squadra giocato con il frisbee. In quel gioco non esiste l'arbitro, e questa secondo me potrebbe essere una chiave di lettura per salvare il mondo. Non c'è nessuno che ti... Paolino, è inutile che fai così. Non c'è nessuno che ti giudica, quindi dipende tutto solo da te. Guarda, stai lì, adesso raccontiamo la storia. Pensala e poi ne parliamo. Avevo 16 anni. E come molti maschi, a quell'età, cominciavo a provare interesse per una ragazza veramente carina. Si chiamava Laura. Era la figlia di un amico di infanzia di mio padre e a volte si usciva in compagnia per passare una giornata sui Colli Euganei vicino a Padova. Laura era proprio bella, alta, slanciata, con due bellissimi occhi. In quegli anni giocava a pallavolo in una squadra parrocchiale di Padova ed io ho cominciato ad andare a vedere le sue partite per starle vicino. La palestra in cui giocava, in pratica, era una buca al di sotto del livello stradale. E il tifo dei pochi genitori e amici creava un rimbombo assordante. Io, per farmi notare, gridavo di tutto per incitare la squadra e, fedele al cliché del tifoso modello, insultavo l'arbitro di turno quando sanzionava la squadra di Laura. Sono sempre stato una persona sanguigna e se riuscivo a portare un risultato a casa anche quando giocavo a briscola, per me era portato a casa. Tieni presente che di pallavolo non ne capivo un accidente. Dai oggi e dai domani le mie urla si facevano sempre più aggressive, finché un giorno, al termine della gara, il suo allenatore mi avvicina e mi dice: senti, invece che insultare l'arbitro, perché non fai il corso per diventarlo? Questa frase ha cambiato il ritmo della mia vita per i successivi 30 anni. Ho colto il suggerimento, mi sono iscritto al corso arbitri di pallavolo organizzato dal CSI di Padova e dopo circa 4 mesi ed un esame teorico e pratico superati, sono stato convocato per la mia prima partita da ufficiale di gara. Il sabato mi presento con la mia bella divisa immacolata di un arancione improponibile, ma fiero del mio ruolo. Pensa che dalla tensione della prima volta ho fischiato la fine della gara per ben 3 volte, anche se in realtà la gara non era assolutamente finita. Dopo 7 anni di centro sportivo italiano sono passato a fare l'arbitro per la FIPAV, che io definisco la pallavolo seria, ma che fino ad allora nemmeno conoscevo, se non per un amico che aveva fatto il mio stesso percorso. In un anno sono passato dal ruolo provinciale a quello regionale e dopo 3 anni ero già in C1, campionato che allora era già a livello nazionale. Il mercoledì aspettavo con ansia l'arrivo della designazione per posta direttamente da Roma, all'epoca non c'erano le email, e subito mi prendevo il mio Atlante d'Italia per vedere dov'era il luogo in cui sarei andato il sabato a dirigere la gara. Dai suoi comodi lucioni, taglia tutto e poi manda il figlio alla Bocconi. Tra la mia generazione nessuno che sa aspettare, tutti scrivono canzoni, nessuno che sappia parlare. Ogni fine settimana lo passavo sempre in un posto diverso. Nord, centro e sud della nostra penisola ormai non avevano più segreti per me. Spesso andavo in treno, da solo, con la mia borsa a tracolla, fiero della scritta FIPAV, arbitro. Io non conoscevo cosa volesse dire passare le serate in discoteca. I miei sabati me li organizzava la FIPAV, dandomi la possibilità di visitare l'Italia a sue spese, facendomi conoscere posti che nemmeno immaginavo esistessero. Un sabato, ad esempio, ero stato designato ad arbitrare a Caronno Pertusella, vicino a Saronno. Parto da Padova la mattina, arrivo a Milano lasciando la borsa al deposito bagagli della stazione e faccio un bel giro della città. Al ritorno verso le 16 riprendo la borsa, prendo la ferrovia della Nord con il mio bel biglietto destinazione Carollo Pertusella. Sono seduto tranquillamente al mio posto ed arriva il controllore al quale consegno il biglietto. E lui mi dice che questo treno non ferma a Caronno, ma va direttamente a Saronno. Balzo dal sedile, gli dico che è impossibile che non si fermi, io devo andare ad arbitrare e a costo di tirare la rapida avrei fermato il treno per scendere. Se non fossi arrivato in tempo per la partita sarebbe, non sarebbe stata effettuata, le due squadre sarebbero dovute tornare a casa e la mia carriera arbitrale sarebbe finita su un treno direzione Saronno. Il controllore è dispiaciuto, mi dice di attendere un attimo, lasciandomi nell'angoscia. E dopo un po' torna, sostenendo che ha parlato con il macchinista. E lui, in prossimità della stazione di Caronno Pertusella, avrebbe rallentato talmente tanto il treno che sarei riuscito a scendere al volo dal convoglio. E così è stato. Sono sceso dal treno in corsa, sono arrivato puntuale ad arbitrare la mia gara a Caronno Pertusella. La mia carriera è andata avanti, arrivando prima in B2 e poi in B1 e partecipando ad eventi che hanno segnato la storia della nostra pallavolo nazionale, come quella volta al Forum di Assago, quando Andrea Zorzi ha varcato il campo della nazionale cubana per dirgliene 4 a un avversario. Davanti a 8.000 spettatori, io c'ero. Facevo il giudice di linea. Poi la mia vita è proseguita con la pallavolo nel sangue e in famiglia, perché ho sposato una giocatrice di livello nazionale e mia figlia oggi, ovviamente, gioca a pallavolo. Sono ancora nell'ambiente dopo 30 anni, facendo il docente ai nuovi arbitri per trasmettere le mie conoscenze, ma soprattutto l'entusiasmo di fare l'arbitro ai ragazzi giovani che si affacciano a questo mondo difficile. Parco, direi, Claudio, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito. C'è un gran sole, quindi o è appena stata scattata o è dell'estate scorsa. Lui è molto molto molto vicino nella foto, lo scatto è fatto molto vicino e sta parlando, sta dicendo qualcosa. E forse solo perché sta parlando e ha l'aria un po' accigliata, ricorda un pochettino quel politico, quello grande, grosso, piemonte, Crosetto. Pronto, Claudio? Ciao Matteo, ciao, buona giornata. Come stai? Bene, bene, la foto mi riporta a tempi bellissimi trascorsi in vacanza. Pensa, sono in un castello sulla Loira, se non sbaglio. Ah, tanti anni fa? Sei molto diverso adesso invece, Claudio. No, sono uguale, sono circa 2 anni fa o 3 anni fa che è successo la vacanza, cioè che sono andato in vacanza. Mi auguro tu ci sia tornato qualche volta in vacanza da 2 anni fa. Sì, okay. Senza problemi. Claudio, partiamo da un piccolo dettaglio. Questo treno in corsa dal quale scendi? Tu dove salti esattamente? Salti sull'erba? Salti sul marciapiede della stazione? No, ero proprio sul come si dice? Sul, in stazione? Al binario 1, sì, al binario 1 proprio della stazione, e lo dovrò sempre ringraziare quel macchinista perché veramente mi ha tolto un bel pensiero dalla testa. E ti dico, sono sceso proprio, il treno era lentissimo e sono sceso senza nemmeno cadere, pensa un po' quanto piano andavo. Ma c'era qualcuno? Cioè, voglio dire, se fossi in stazione e vedessi un treno che rallenta e uno che salta giù al volo, qualche domanda me la farei. Eri da solo, non c'era nessuno che è intervenuto, no? Tu sei mai stato alla stazione di Caronno Pertusella? No, ammetto di no. Erano più o meno le 19 di sera, per cui veramente d'inverno, fra l'altro, per cui proprio non c'era proprio nessuno, e credo che sia che il treno abbia rallentato proprio per quel motivo lì. Ok, insomma non rischiavi di travolgere una signora che era lì che aspettava il treno per Saronno. Tra l'altro, appunto, fa ridere questa cosa che un posto si chiama Caronno Pertusella, l'altro si chiama Saronno e sono a pochi chilometri di distanza in realtà. Esatto. Claudio, veniamo invece alla parte dell'arbitraggio, perché c'è un messaggio che è arrivato poco fa da Rosario, che dice la peggiore gara sarà sicuramente l'ultima, che sarà più o meno tra un anno. Essere in campo ed arbitrare è una sensazione che solo gli arbitri conoscono. Mi spieghi tu che cosa vuol dire questo messaggio? Guarda, io non so questo arbitro di che sport. Lui dice calcio a 5, lui. Perfetto, guarda, io ti dico, io ho la fortuna di essere arbitro di pallavolo, e tu sai che l'arbitro di pallavolo dirige la gara sopra un seggiolone praticamente all'altezza della rete, no? Sì. Ti dico, è una sensazione unica, più che altro perché non hai nessuno davanti più alto di te che ti impedisce di vedere la partita intanto. Ah, quindi dici, ti godi lo spettacolo? Davanti a me non ci può essere nessuno, okay, per cui okay. E non pago il biglietto. Ok, quindi questo, diciamo, è per amanti dello sport sostanzialmente, direi il sì. Punto numero uno, cioè deve piacerti quello sport lì. Sì, deve piacerti sicuramente lo sport, e poi è una sfida con te stesso anche, perché sai, è un conto è conoscere il regolamento, un conto è applicarlo, è un conto è gestire delle persone che tutto sommato si contendono una partita, che potrebbe contendersi un campionato, che potrebbe contendersi uno scudetto, per cui hai anche una bella responsabilità che poi ti dà la soddisfazione di aver contribuito con qualcosa allo sport. Quindi non c'è, lo chiedo a te, ma perché magari hai conosciuto qualche collega in più e hai quella insomma percepisci quella sensazione, non c'è anche una parte di protagonismo? Cioè comunque ho in mano le sorti di questi che stanno sperando tantissimo di vincere una cosa, e comunque sia da me dipende in parte come andrà la cosa. Guarda, io credo che chi interpreta l'arbitraggio in maniera sbagliata ragiona così, indubbiamente sì. Mentre la parte, cioè il modo migliore per interpretare l'arbitraggio è solo considerarsi parte di uno spettacolo e di uno sport. E cercare di renderlo insomma il migliore possibile, mi sembra di capire. Certamente, guarda, l'arbitro più bravo è quello che non si fa notare da nessuno. Senti, Claudio, ti è mai capitato di fare proprio un errore grave e di dire... E di perdere l'attimo per cui dire, per cui fai in tempo a dire ho sbagliato, torniamo indietro e lasciare andare? Guarda, tornare indietro nella pallavolo tutto sommato si può anche, okay. Però forse è meglio qualche volta evitare, perché magari perdi di autorevolezza. Per cui diciamo che se non è proprio eclatante e magari non se ne sono accorti in molti, vai dritto. Tutto sommato, la cosa principale è quella di non poi compensare con un altro errore. Senti, quando guardi le partite, quando guardi le partite di pallavolo alla televisione, ad esempio, sì. Ti capita di arrabbiarti con l'arbitro? Adesso sinceramente no. Nel senso, se secondo me non interpreta una regola come l'avrei interpretata io, mi chiedo il perché. È più da collega, certo, è chiaro. Senti, il fatto che tu conosca tua moglie su un campo da pallavolo sembra scontato, ma nemmeno così tanto, perché comunque tu sei lì a giudicarla, giusto? Beh, allora ti dico che con la scusa che io avevo un rapporto con lei, non potevo andare a arbitrare le gare che lei giocava. Proprio, okay. Diciamo per etica professionale, io dichiaravo all'inizio della stagione che appunto avevo questo rapporto con una giocatrice, per cui non mi mandavano ad arbitrare gare del suo campionato. Ma come l'hai conosciuta? Beh, perché lei si allenava in palestra più volte alla settimana, io andavo a fare il mio allenamento settimanale e l'ho conosciuta lì in palestra. E invece mi dici solo l'avvenimento di cui parli, di Zorzi che passa dall'altra parte della rete, quando risale? Adesso esattamente non ti so dire, ma sicuramente sarà una quindicina d'anni fa, anzi forse sì, una quindicina d'anni fa sicuramente. Ma è stata una cosa incredibile. Pensa che l'arbitro di turno non ha neanche avuto il coraggio di tirare fuori il cartellino o di espellerlo. È stata una cosa talmente... immediata e non preventivabile da nessuno, che anche l'arbitro stesso si è trovato nell'impasse di dire e adesso cosa faccio? E cosa ha fatto? Niente. Quando ho pensato, lui era già tornato nel suo campo. Magari dopo allora lo cerchiamo quell'episodio e lo carichiamo sul nostro profilo Facebook. Claudio, io ti ringrazio per la storia e ti faccio in bocca al lupo per la tua carriera di formatore, adesso mi sembra di capire. Grazie a te Matteo, è importante che gli arbitri siano seguiti da persone qualificate, perché essendo giovani in questo periodo hanno bisogno di crescere, e se noi riusciamo a dargli una mano è un bene per tutti. Grazie ancora, ciao Claudio. Ciao, a presto. Ciao. Mi scrivono Roberto. Sì, è vero, i tornei di frisbee sono bellissimi perché le squadre che si affrontano sono senza arbitro e arrivano a mettersi d'accordo tra di loro. Prima di chiudere, voglio ricordarvi che settimana prossima, esattamente mercoledì, abbiamo qui dal vivo per l'ultimo live di Voi Siete Qui. Ne abbiamo fatti uno al mese ogni mercoledì. Dente dal vivo qui a Radio 24. Mercoledì prossimo alle 16. Se volete invece vedere come è andato l'altro live, l'ultimo che abbiamo fatto con Niccolò Carnesi, andate sulla nostra pagina YouTube o banalmente sul nostro profilo Facebook, abbiamo caricato tutto il caricabile. Grazie ancora a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Claudio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Daniela, abito a Nova Milanese. La storia di domani è la mia. Parlo del motivo per cui ho scelto alla fine della terza media di iscrivermi all'istituto magistrale per diventare appunto una maestra elementare. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.